La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci, un saluto da Franco D'Assisti, La Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Settimana di maggio, primo weekend, unico weekend, diciamo, con la festa del cinema che ormai da qualche giorno è cominciata nei cinema di tutta Italia, eventi, incontri, presentazioni e soprattutto cinema a 3 euro, a 5 euro per quanto riguarda i film in 3D, tutto questo fino al 16 maggio. Ne parleremo nel corso di questa puntata della Rosa Purpurea. Sono 9 i film che arrivano in sala in questo fine settimana, come sempre un po' di affollamento, come sempre abbiamo dovuto fare delle scelte che vi riepiloghiamo nei nostri titoli di testa. Se il capo e spada orientale incontra Tarantino. Nelle sale L'uomo con i pugni di ferro, con Russell Crowe, Jamie Chung e Lucy Liu. Un fabbro nella Cina del XIX secolo si trasforma in una macchina di morte per togliere la sua amata dalla schiavitù della prostituzione. Sergio Rubini, regista e protagonista di Mi rifaccio vivo, con Neri Marco Re, Margherita Bui e Vanessa Incontrada. Commedia della rivincita su Biagio Bianchetti, che ha sempre detestato il compagno di scuola Ottone. Troverà una via personalissima e ultraterrena per vendicarsi. In trasmissione sul nostro sito le interviste a Sergio Rubini e Neri Marco Re. Quando la pubblicità è una potente arma politica. Esce in Italia No, i giorni dell'arcobaleno, di Pablo Larraín con Gael García Bernal. 1988. Il Cile deve scegliere se dire sì o no al proseguimento della drammatica dittatura di Pinochet. Determinante il lavoro di un giovane creativo che modernizzerà la comunicazione e cambierà la storia del paese. Parte col botto la festa del cinema, che fino al 16 maggio offrirà ingressi in tutti i cinema a 3 euro. Nei primi giorni le presenze si impennano del 40%. Ne parliamo con Lionello Cerri, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e patron dell'Anteo e dell'Apollo di Milano. Bene, questo allora è il menù. Cominciamo subito a tuffarci allora nel vivo delle novità, delle proposte cinematografiche che arrivano in sala in questo fine settimana, cominciando col cinema italiano, una commedia che riporta sul grande schermo un attore regista che soprattutto a cavallo degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 ha messo a segno prove anche molto convincenti. Parliamo di Sergio Rubini, il suo film che annovera nel cast un po' di nomi importanti come quelli di Margherita Bui, di Neri Marco Re, di Emilio Solfrizzi, di Vanessa Incontrada. Si intitola Mi rifaccio vivo, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Voi adesso mi vedete in una situazione leggermente imbarazzante, ma io ero un grande uomo, non mi mancava niente, avevo i soldi, il successo e una moglie bellissima. Poi un giorno arrivò lui e la mia vita andò a fondo. Chi parla è Biagio Bianchetti, sul punto di suicidarsi. Lo interpreta Lillo, di Lillo e Greg. Il lui che gli ha rovinato la vita e gli ha fatto ombra fin dalle scuole elementari è Ottone di Valerio. E così lo descrive il suo interprete, Neri Marco Re. Sembra perfetto agli occhi di Biagio Bianchetti, invece poi, come capita sempre, quando le cose le conosci più da vicino, scopri che la perfezione non esiste, che anzi dietro all'apparenza di un uomo perfetto ci sono invece tantissimi difetti, anche peggiori di quelli che uno può trovare in sé. Un percorso di vita in una storia che dura appunto un'ora e mezza ed è quasi un romanzo di formazione. Biagio conosce davvero Ottone grazie a un bonus ottenuto nell'aldilà. In un primo momento il suo destino sembra segnato. Primo, si è tolto la vita. E poi mi dica, qual era il suo lavoro? Imprenditore. Imprenditori, capitalisti, padroni e tutte le categorie che prevedono lo sfruttamento delle classi inferiori devono alloggiare ai piani inferiori. Ma stia zitto lei con quella faccia da Carlo Marx! Ma io sono Carlo Marx! Procedete! Sì, nel centro di smistamento c'è Marx, che consulta il regolamento. Un'ultima buona azione compiuta in vita permette a Biagio di tornare per una settimana nel corpo di un'altra persona. Dennis Rufino, il grande manager. Ciao Ottone, sono Dennis. Sì, sto partendo. Caro Dennis, benvenuto. Questo Ruffino, manager pseudo-filosofo, è il volto di Emilio Solfrizzi, ma quando si guarda allo specchio appare la sua vera anima, il fu Biagio Bianchetti, un po' conte di Montecristo, che si mette al lavoro per rovinare il nemico di sempre, sul lavoro e nel privato, attraverso la moglie interpretata da Margherita Bui. Ma vogliamo oltre, ma certo possiamo dire che questa è una commedia nel senso classico del termine. Dal peggio, il suicidio, si va a salire verso il bello e il buono. Ha voluto fare un film positivo Sergio Rubini, per la prima volta alle prese con questo genere. Penso che in questo momento un film di positivo sia un atto di coraggio. Una volta i film positivi venivano visti come diceva un lieto fine. Ecco, penso che in questo momento di crisi un finale positivo significhi anche l'indicazione di una strada. E il film ha questo obiettivo, indicare una strada e fare in modo anche che lo spettatore esca dal cinema sollevato, con una speranza. Penso che la speranza in questo momento sia fondamentale. Come sono venuti fuori Marco Re, Lillo? Li ho pensati a monte, li ho coinvolti, gli ho raccontato la storia e l'ho scritta pensando di averli già dentro. E quindi in qualche modo ho scritto per loro. Solitamente i comici vengono visti come personaggi molto invasivi, anche un po' preoccupati solo delle loro battute che ti rubano la scena. Invece io sono stato fortunato, ho avuto dei comici generosi che sono diventati un'ottima squadra e mi hanno sostenuto anche nei momenti un po' più complessi. Più che di sceneggiatura, le tante gag del film sono fisiche, molto, anzi troppo, si gioca su scambi da commedia degli equivoci, con spunti simpatici, anche se l'idea della reincarnazione non è proprio nuova, già decenni fa il paradiso poteva attendere. Lo svolgimento è però nell'insieme abbastanza fiacco. E allora queste le parole, la conclusione della nostra Chiara Pizzimenti, insomma un'operazione sicuramente con i suoi punti di interesse ma che nel complesso non convince fino in fondo, è comunque un film italiano importante. Vi ricordo le interviste integrali con Sergio Rubini, con Neri Marcolene, potete ascoltare sul nostro sito www.radio24.it, andate alla pagina della Rosa Purpurea e comunque da questo weekend le trovate anche con richiami in home page, le interviste integrali, così potete sentire più di quello che avete sentito di questi due protagonisti del cinema italiano importante. Mi rifaccio vivo. La Rosa Purpurea. Per forgiare un'arma occorrono tre cose: il metallo giusto, temperature oltre 1400 gradi e qualcuno che ha voglia di uccidere. Qui a Jungle Village ne abbiamo tutte e tre. Ecco, se questa fosse la ricetta di una torta o di una pietanza, sarebbe sicuramente sanguinolenta e piena di rivoli rossi. E in effetti è così anche per il cinema. È la ricetta di L'uomo con i pugni di ferro, una ricetta molto molto tarantiniana, sin dalla benedizione, dalla sponsorship, chiamiamola così, di Tarantino. E in effetti in questa storia ambientata in un'epoca imprecisata dell'antica Cina, siamo però più o meno nel XIX secolo, dove un fabbro costruisce armi letali per i peggio guaglioni della zona, e lo fa per guadagnare i soldi per liberare dalla cattività e dalla prostituzione la sua amata. Insomma, in questa storia avete già sentito, riecheggia tantissimo Django Unchained, riecheggia tantissimo Tarantino, ma riecheggia anche tanto del cinema recente, e recente vuol dire ormai degli ultimi 10-15 anni, di cappa e spada cinese, hongkongese, taiwanese, con evoluzioni roteanti, con combattimenti kung fu davvero molto spettacolari, tanto che io dopo 20 secondi di trailer ho spento e ho detto: questo lo faccio vedere a Boris Sollazzo, che saluto. Eccolo qua, Boris. Ti ho fatto un piacere oppure... Forse non ti ringrazierò neanche un po', perché questo wuxia, che è il genere che hai brillantemente descritto, è davvero la versione brutta di tante cose belle che abbiamo visto arrivare dall'estremo oriente. Il capo e spada qui è raccontato in maniera irritante, secondo me, esteticamente parlando, in maniera scialtona. RCA, se è così che si dice, un rapper, forse avrebbe dovuto continuare a fare quello. Non convince come attore, lui il fabbro, e non convince come regista nel raccontare una storia di riscatto, sì è vero, molto tarantiniana, ma che trova le sue cose migliori forse in alcuni dei dettagli. Penso per esempio all'elaborazione, alla fattura delle armi, che è molto particolare. Penso alla scenografia del bordello, ma veramente poca roba. Già dal titolo secondo me si capisce che il film non è molto felice, che cerca di imitare qualcosa, una cultura che di fatto non conosce, non ama e non sa narrare. Nessuno ha il potere finché non lo agguanta con il sesso e la violenza. Tutti hanno paura di questi uomini. E tu? No. Il carico governativo sarà qui tra pochi giorni. Signori, guerrieri, vedremo chi resterà in piedi e chi in ginocchio. Boris, all'inizio fu Ghost Dog oppure Kill Bill, cioè la visione occidentale del Wuxia, come l'hai chiamato tu appunto questo genere, come si chiama peraltro, questo genere di cappa e spada orientale. Adesso perché secondo te Tarantino sente il bisogno di mettere, dopo un successo come Django, di mettere il suo nome a disposizione di questa operazione? Beh, Tarantino è un generoso, è uno che ha messo il suo nome su parecchie cose. Ricordiamo che c'era un periodo dopo Kill Bill in cui Quentin Tarantino presenta era la scritta che vedevamo più spesso all'inizio dei titoli di testa di certi film. A lui piacciono e sicuramente capisco che ci sono tutta una serie di li chiameremmo cafonate che possono piacergli e anche dei momenti molto divertenti del film. Sono però 2-3 minuti al massimo in un film che dura 30-40 volte tanto, ed è quello il problema. Spesso ci si perde anche Tarantino nei dettagli, perdendo il senso dell'universale. Quando vede gli altri lo fa ancora di più. Un po' di piacere prima del lavoro? Tu sei il lavoro. Questo è piacere. E ci siamo lasciati con la voce di Russell Crowe nel trailer dell'Uomo con i pugni di ferro. Cominciamo a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Quando avremo accesso a quelle piantagioni, metteremo in scena una commedia. Tu interpreterai un personaggio. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci insieme al titolo del film il vostro indirizzo di posta ordinaria. Io vi raccomando sempre di farlo perché molto spesso non lo fate. E allora, la rosa purpura @radio24.it è il nostro indirizzo per partecipare al gioco, per provare a vincere una copia in DVD di questo film, e più tardi vi daremo altre due possibilità. Adesso parliamo di un altro film che ha già, come dire, un nome consolidato, un ruolo consolidato nella storia del cinema horror. Sam Raimi, ormai parecchi anni fa, ahimè, dirigeva, era un giovanissimo Sam Raimi non è neanche tanto vecchio adesso, figuratevi un po', dirigeva un film che si intitolava La Casa, ricorderete la locandina probabilmente con questa casa stregata, cupa, faceva orrore già a vederla. Adesso va dietro la scrivania da produttore e produce quello che è un po' un reboot, un po' un sequel, un po' un remake. È una circostanza che comunque Fede Alvarez, regista uruguagio, come tanti bravi calciatori, dirige con risultati che tutto sommato possono non essere del tutto negativi. Allora, sentiamo prima una clip dal trailer e ne parliamo con Boris Sollazzo. C'è qualcosa nel bosco. E sono convinta che sia qui con noi, nella casa. Adesso. E allora adesso, mi stavo perdendo adesso, che era fondamentale. Boris, dicevamo, Sam Raimi l'ha spiegato, 30 anni dopo il cinema tecnicamente è un'altra cosa, l'audio, il sonoro tecnicamente è un'altra cosa, e lui ha spiegato, abbiamo girato in mono l'altra volta La Casa, oggi c'è il 5.1, c'è una capacità di coinvolgere lo spettatore in sala tutta diversa, e poi c'è anche esteticamente e narrativamente la possibilità di raccontare diversamente, di fare un po' eco, fare un po' spalla con quello che è stato il passato di quel film e di questo genere. No, assolutamente, secondo me Fede Alvarez, che è uno che nel genere ha dimostrato di muoversi benissimo, andatevi a cercare su YouTube il suo corto di fantascienza fatto nel 2009 e capirete che talento geniale sia. Qui ha capito che per fare un remake della casa non dovevi fare prendersi il rischio che, per dire, si è preso Alessandra Cià nelle colline hanno gli occhi, cioè mettersi a pari del capolavoro con cui vuoi confrontarti, ma in qualche modo appunto di essergli di spalla, di essergli di introduzione, cioè di usarlo come modello di genere. Siccome Alvarez sapeva di non avere l'ironia, la follia surreale di Raimi, non aveva nemmeno gli anni in cui Raimi ha fatto uscire La Casa, che erano anni diversi e che potevano permettere appunto di far paura con meno e con altro, l'ho usato come modello di genere, ha sfruttato la migliore tecnologia, tra cui quell'audio che dicevamo, e non distaccandosi molto dalla casa originale, però l'ha voluto far diventare un prodotto commerciale solido, molto buono, pauroso, devo dire, e non è poco per un horror di questi tempi. Di solito ci si diverte, ma l'umorismo involontario e non per l'intrattenimento terrorifico, e alla fine secondo me passa l'esame, ed è un ottimo viatico, soprattutto per chi La Casa non l'ha mai visto. Cioè io mi immagino adolescenti che sono il target di questo film, che vanno a vedersi La Casa e hanno il gusto e anche il privilegio, attraverso Fede Alvarez, di recuperare anche il film di Raimi e di fare il giusto percorso, che non è il nostro invece, che abbiamo fatto il contrario e che quindi il capolavoro ce lo siamo visti prima e magari con un minimo più di amaro in bocca siamo rimasti. Però devo dire, assolutamente esame superato, e secondo me di Fede Alvarez sentiremo parlare molto molto a lungo. Noi ti avremo, non ci sfuggirai, quando dormirai morirete questa notte. E allora, questo era La Casa di Fede Alvarez. Abbiamo proprio qualche secondo, poco più di un minuto, per parlare di un altro film tra i 9 che arrivano in sala in questo fine settimana, che si intitola Confessions. Ha avuto grande eco anche al Far East Film, è stato un film molto premiato, è un film che divide fra chi ha amato questa storia per la sua perfezione anche estetica e chi l'ha odiata per la sua perfezione estetica. Cioè c'è un'estetica in questo film che è un film noir, quasi con venature thriller psicologiche, con una storia molto pesante in termini di clima. C'è un'estetica molto laccata, molto raffinata all'eccesso, da spot in un certo senso, che ha diviso, però oggettivamente è un film interessante. Allora sentiamone qualche secondo del trailer e poi una piccola chiosa da parte di Boris. L'ho già usata una volta come cavia. Devi dire alla polizia esattamente che cosa è successo. Insieme è molto meglio. Straight. Alzati, scemo. Tu non hai paura. Andai anche a parlarne col preside, ma le mie paure furono liquidate con una risata. Fu allora che sentii per la prima volta il suono di qualcosa di importante che sparisce per sempre. Boris, anche una storia di vendetta in fondo, no? Sì, una storia di vendetta, soprattutto una storia di vendetta. Sono pienamente d'accordo con te. Il film di Nakashima, mi perdonino i puristi del cinema orientale, a mio parere prende un classico, che è appunto la vendetta anche violenta, feroce, che parte da un assunto morale anche fisico molto, molto potente, e la porta appunto a un'estetica esagerata, eccessiva, come il talento di Nakashima, che secondo me è straordinario, lui è fantastico. Il problema è che capisco chi lo ama e capisco chi lo odia, perché Nakashima è come se tornessi Maradona, che non fa toccare la palla a nessuno, ma non tira neanche mai in porta. E il problema è proprio quello di Confessions, secondo me, che viene abbacinato dalla straordinaria fattura estetica del film e anche da una storia particolarmente avvincente, e poi hai l'impressione però che lui stesso si specchi in tutto questo suo talento, in tutta questa sua bravura, e non affondi il colpo. Ed è il grande pregio del grande difetto di Confessions, che comunque è un film che a mio parere merita di farci guardare, di farci vedere, perché probabilmente farà parlare di sé. Grazie Boris, allora appuntamento alla prossima settimana con le novità al cinema. Alla prossima. La Rosa Purpurea. Ed Ed eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, terza parte, film della settimana. Abbiamo detto, di questo ne sono assolutamente convinto, si intitola No, i giorni dell'arcobaleno, è diretto da Pablo Larraín, regista cileno ormai affermato a livello internazionale, con premi in tutti i grandi festival. Molti di voi ricorderanno i suoi precedenti usciti in Italia, Tony Manero e Post Mortem. Entrambi comunque avevano sullo sfondo le atrocità della dittatura cilena di Pinochet. Questa volta ci si va con No, i giorni dell'arcobaleno, ci si va molto più direttamente dentro questa storia, dentro la storia con la S maiuscola, con un attore che è un salto di qualità in termini di star system anche per Pablo Larraín, ovvero Gael García Bernal. Siamo nel 1988, forse qualcuno di voi lo ricorderà, dopo 15 anni di dittatura feroce il regime di Pinochet viene messo alle strette dalla comunità internazionale, soprattutto dagli Stati Uniti, che sostanzialmente dicono qui bisogna che tu ti faccia almeno suggellare da un voto, da un referendum, che tu chieda al tuo popolo, magari in maniera anche pro forma, perché chiaramente il potere dei militari e del regime sui mass media e sulla società era totale, che tu chieda pro forma se ti vogliono ancora per un periodo di ulteriori 8 anni, e mica poco, o se invece non ti vogliono. Parte questa campagna referendaria, Pinochet è costretto ad accettare sostanzialmente questa situazione. E l'unica concessione che viene fatta al fronte del no, cioè quello che dice no al prosieguo dell'esperienza di Pinochet, è quello di avere 15 minuti di televisione libera, e all'epoca libera era un grandissimo lusso, per poter fare i propri spot, la propria comunicazione. Proprio in quest'ambito il film si svolge, raccontando una storia vera, quella di un pubblicitario interpretato appunto da Gael García Bernal, ma che nella verità si chiamava Eugenio García, che faceva spot per compagnie commerciali e che venne chiamato dal fronte del no, nel quale convergevano i socialisti e la Democrazia Cristiana cilena di quegli anni, per confezionare appunto la comunicazione, lo spot che doveva andare fuori, che doveva dire alla gente: dovete votare no, votate no, per concludere, interrompere l'esperienza della dittatura di Pinochet. Ovviamente il nostro, che nel film si chiama Ernesto Saavedra, appunto Gael García Bernal, porta le sue esperienze, porta anche la sua giovane età, le sue idee fresche e innovatrici di un realizzatore di spot commerciali, incontrando nello stesso fronte del no non pochi ostacoli. Dopotutto, oggi il Cile pensa al suo futuro. Andiamo. Soy libre de pensar, porque pienso que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuándo ya de abusos es el tiempo de cambiar? ¿Esto es todo lo que avete? Porque todo lo que abbiamo, diciamo, come bozza. La campagna è questa. Ma a me sembra una pubblicità della Coca-Cola. Anzi, molto peggio. Sì, hai ragione. Non è una... No, scusate, non scherziamo. Io rispetto la vostra opinione, ma stiamo facendo qualcosa di molto più serio. Utilizzando un linguaggio pubblicitario che è universale, familiare, attraente, ottimista, ma che ha alle spalle un concetto politico preciso. Ernesto Saavedra ottiene la fiducia, diciamo così, e se la deve sudare giorno per giorno. Questi spazi di 15 minuti cominciano ad andare in onda, preceduti sempre da questo spot e anche da una canzone molto orecchiabile, che poi ne sentiremo una traccia, che appunto viene coniata per l'occasione. La gente sembra cominciare a reagire. Inizialmente il regime non se ne preoccupa più di tanto, convinto com'è che questo appunto sia un referendum pro forma, che Pinochet vincerà senza ombra di dubbio, perché può schierare tutta la sua marzialità, può ottenere tutto quello che vuole in termini di mezzi e uomini. Però pian piano che il tempo passa, man mano che passano le settimane, saranno praticamente 4 settimane di campagna elettorale, di campagna referendaria, le cose cambiano e anche la percezione da parte del regime cambia. Il pericolo che questo giovane copywriter riesca a scalzare le idee dalla testa della gente si fa sempre più concreto e i pericoli cominciano a correre. La loro campagna è molto scherzosa. Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate. Pronto. Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato. Ieri sera ci hanno minacciato tutti. Sta attento a tuo figlio. Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera ora dipende solo da voi. Ecco, sentite le note che vi dicevo prima. Insomma, le cose andranno in un certo modo, ma tanto non è che vi svelo il finale è scritto sui libri di storia. Pinochet cadde, Eugenio Garcia, alias Ernesto Saavedra, viene portato in palmo come quello che ha, con questo piccolo spot, con questa piccola grande rivoluzione, scardinato le idee dalla testa della gente, le ha fatte cambiare, anche se, invece qui non vi dico niente, il finale è molto meno edulcorato, sorridente e ottimistico di quello che potrebbe sembrare. Un film perfettamente riuscito, compatto, con una sceneggiatura ottima, con un'interpretazione da Gael García Bernal di grande understatement. Non fa la star, si pone a servizio di questo ruolo, con la storia con la S maiuscola sullo sfondo, ma anche con la capacità di raccontare l'oggi, perché non è che le cose siano cambiate tantissimo. Il potere della comunicazione, la capacità di usare i linguaggi giusti è, diciamo, dovrebbe essere ancora oggi un tema fondamentale per chi vuole provare a vincere delle elezioni. Abbiamo notato che non sempre è stato così. Quindi davvero consigliabile questo No, I giorni dell'arcobaleno, che esce in questo fine settimana, che starà, speriamo, un po' nelle sale e che potrebbe essere una delle occasioni da sfruttare per questa festa del cinema della quale parleremo fra poco. Prima però la seconda traccia misteriosa del film di oggi. Va bene, gente, calma. Badate ai fatti vostri. Questi buffoni se ne stanno andando. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, provate a vincere una copia in DVD per il sabato e per la domenica di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora parliamo di questa festa del cinema, cominciata a metà della settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, che proseguirà fino a metà della prossima, che vive in questi due giorni invece il suo grande weekend. È una seconda edizione, ma è un evento che è stato fortemente rivoluto, perché può essere davvero una chiave, se interpretata in maniera giusta, non solo per, e non è poco, andare al cinema con 3 euro, che davvero permetterà probabilmente anche a molte famiglie di mettersi insieme, di andare senza spendere una fortuna. Io ricordo sempre che il cinema rimane l'evento pubblico, lo spettacolo meno caro che esista. Provate ad andare in 4 allo stadio, provate ad andare in 4 all'opera, provate ad andare in 4 a una mostra, per rendervene conto. Però è vero che si può anche risparmiare, lo si fa molto spesso durante l'anno con abbonamenti, con i mercoledì, con i giorni, eccetera, eccetera. Stavolta è una grande festa per poter portare a casa il risultato che non è, come dicevo, solo quello di tanto pubblico, ma è quello di nuovo pubblico. Ne chiediamo conferma, convinti che sia così, da Lionello Cerri, che è in collegamento con noi. Lionello Cerri, patron dell'Anteo, dell'Apollo di Milano, produttore cinematografico, tante cariche coperte e ricoperte nell'industria del cinema, insomma, un uomo di cinema. Lionello, ciao e benvenuto alla Rosa Purpurea. Ciao, ciao a tutti. Allora, è così, cioè portarsi a casa spettatori nuovi, che è un po' la sfida, no? Beh, certo che sì, noi abbiamo fortemente voluto come filiera, come esercenti, come distributori e produttori questa festa del cinema per mettere sotto i riflettori in una settimana il meglio della produzione e della distribuzione di film in questo momento, sia nazionali che internazionali, anche per poi lanciare attraverso la festa del cinema una stagione estiva che quest'anno, a differenza degli anni passati, sarà eccezionale, con tanto buon prodotto sia nazionale che internazionale, di uscite nelle stesse date dei festival e uscite nelle stesse date che escono in America o nel resto d'Europa. Non eravamo abituati a questo. Solo per alcuni prodotti, questa volta ci saranno sia i classici blockbuster che i film di qualità d'autore, eccetera. Ecco, tra l'altro un titolo per esempio che si riesce ad agganciare con la festa del cinema, perché esce il 15 di maggio, è l'apertura del Festival di Cannes, il film di Baz Luhrmann, Il grande Gatsby. Certo, certo, sì. Giovedì è partita la festa ed è partita molto bene, nel senso che i dati, c'è un più 40% di presenze. E quindi sicuramente dati importanti. Lionello, tu hai un'esperienza ultra decennale, ormai sono 30 anni più o meno, no? Che ti porti avanti l'esperienza sì. dell'Anteo e poi quella dell'Apollo. Come si fa a fidelizzarli? Perché è la grande sfida, tu ci sei riuscito nelle tue sale. Come si fa a fidelizzare gli spettatori? Come si fa a fargli capire che non è solo l'esperienza di stavolta, ma che l'esperienza del cinema in sala rimane unica per tutto l'anno e per tutta la vita, direi? Diciamo che poi ogni città ha una sua realtà, chiaro, Milano è una città metropolitana, in città più piccole o paesi o cittadini di provincia è tutto molto più difficile. Il problema è la grande passione per il cinema, il fatto di pensare che il cinema è formato da più pubblici, non vorrei essere molto tecnico, però trovare delle idee, delle proposte per i giovani piuttosto che per le donne, piuttosto che per gli over 60, è un'ipotesi di lavoro di un certo tipo. Io credo che in questo momento il cinema, come dicevi giustamente tu, che soffre di una crisi, perché è il paese che soffre la crisi dal punto di vista del potere d'acquisto, le nostre famiglie fanno fatica a tirare la fine del mese, è chiaro che poi anche i sistemi del tempo libero vanno un po' in crisi. Questa volta è la prima volta che il cinema, che ha un prezzo popolare, di solito è anticiclico, anche nelle crisi non viveva questo problema. Questa volta è talmente forte la crisi che la vive anche il cinema. Credo che il fatto di uscire da questa situazione sia ovviamente una questione economica e dall'altra parte sia quell'obiettivo di riportare i giovani a vedere questo bellissimo sistema di spettacolo, perché il cinema ti fa sognare, ti fa piangere, ti fa emozionare, ma soprattutto ti fa stare insieme agli altri. E questa cosa qua in una sala con tanta gente che ride, che si emoziona, è una bella esperienza, insomma, invece che stare a casa sopra il tuo computer, cosa che si può benissimo fare, ma non deve essere l'unica cosa da fare. Ma soprattutto è una cosa assai diversa. Lionello, grazie mille per essere stato con noi, presidente dell'ANEC, Lionello Cerri, Festa del Cinema fino al 16 di maggio. Grazie a voi. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, vi dobbiamo un'altra segnalazione che sempre ricade in parte nell'ambito della Festa del Cinema, perché al Cinema Beltrade di Milano gli amici della Barz & Dippo organizzano una retrospettiva di Nicholas Winding Refn, che è poi un po' il regista di culto di queste ultime due stagioni, soprattutto dopo Drive. Tutti i giovedì, praticamente fino al 30 maggio, ogni giovedì i film di Nicholas Winding Refn, fra Pusher, Pusher 2, Pusher 3 e poi Drive, Valhalla Rising e Bronson, quindi insomma la possibilità di vedere il lavoro di questo interessante regista. Cinema da vedere in casa, come sempre nella quarta parte della Rosa Purpurea, con gli amici di Film TV, del settimanale Film TV. È con noi Giulio San Giorgio, che ha selezionato qualche film dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Ciao Giulio. Ciao Franco e un ben ritrovati a radioascoltatrici e radioascoltatori. E allora cominciamo subito con un film che cade a fagiolo, ma non casualmente, perché questa settimana da una parte, e questo non lo poteva sapere nessuno, è venuto a mancare il senatore Giulio Andreotti, dall'altra, e questo lo sapevano tutti, c'era l'anniversario, il 35esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro e quindi della morte di Aldo Moro. Un film che ragiona su quella politica, su quei protagonisti, è sicuramente Buongiorno Notte. Esattamente, domenica su Rai 5 alle 23:20, Buongiorno Notte. Bellocchio rimmagina, reinventa il caso Moro dividendosi tra un approccio realistico, alla base del film c'è il libro Il prigioniero della terrorista Braghetti, e una fuga verso il lato più spettrale, ipotetico e psichico della vicenda. Così il regista si addentra nella storia del rapimento di Moro, percorrendola a modo suo, vagando tra la cronaca e il surreale, raccontandoci così non solo la storia di Moro, ma anche altre storie possibili, i desideri repressi e i rimossi oscuri di una nazione. E ricordiamo allora Buongiorno Notte, domenica 12 maggio alle 2:40 di notte, ovviamente, su Rai 4. Un altro film, un regista che è fra i miei preferiti in assoluto, Louis Malle, nel 1980 dirigeva con un cast americano di grande importanza un film che si intitolava Atlantic City USA e vinceva il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Sì, giovedì su Rai Movie alle 19.25 Atlantic City USA di Louis Malle, un regista che come te Franco amo alla follia. È una storia di gangster ed azzardi in una Atlantic City che, come quella del re dei giardini di Marvin di Raffleson, è la cartolina di un sogno americano ormai decaduto e volgarizzato. Malle non nasconde mai in nessuna inquadratura di essere un europeo che guarda e giudica il mito americano, ma il film è tutt'altro che cerebrale, anzi è un film erotico e torrido e animato poi da un gigantesco Burt Lancaster. E allora Atlantic City USA, giovedì 16 maggio alle 19.25 su Rai Movie. Grazie Giulio San Giorgio, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del game di oggi. Tu che fai per il tuo padrone? Non hai sentito che non sono uno schiavo? Cioè adesso sei libero? Sì, libero. Ti vesti così perché piace a te? La rosa purpura @radio24.it, di che film si tratta, titolo e vostro indirizzo per provare a vincere una copia in DVD di questo film che sveleremo la prossima settimana, una copia per il più rapido, il più bravo del sabato e della domenica. 7 giorni fa avevamo giocato così. Sempre deve intrometterti in cerca di guai dove non esistono. Lasciatelo parlare. C'è qualcosa all'opera dietro il male di Smaug, qualcosa di molto più potente. E allora si trattava dello Hobbit, il ritorno della saga del Signore degli Anelli firmato da Peter Jackson, film che ha aperto comunque fra i primi di questa stagione. Lo hanno indovinato per primi e vincono quindi l'edizione in Blu-ray bellissima di questo film Edda Odorici di Milano ed Edoardo Astone di Roma. Saranno loro a ricevere a casa nei prossimi giorni il Blu-ray di The Hobbit, di cui ci parla il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora da Warner Home Video questa uscita importante di DVD, ma soprattutto Blu-ray, come dicevi giustamente tu, da privilegiarsi in assoluto questa volta, non solo per via dell'alta definizione, ma proprio perché ha una marcia in più, dal momento che il regista ha girato il film in digitale aumentando il numero di immagini per secondo, passando dai consueti 24 a 48 frame, il che ha fatto salire ulteriormente la qualità di insieme, il senso di profondità di campo e la naturalezza degli elementi. Nell'edizione Blu-ray più completa troviamo 2 dischi con il film in 3D di eccellente qualità, un terzo disco con la versione 2D e infine un Blu-ray per gli extra, di cui segnalo un documentario di 127 minuti sulla lavorazione. E quindi questo è il ricco menù dell'Hobbit. Un paio di segnalazioni invece fra le novità in un video, un film piuttosto cheap, diciamo così, per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, che però ha segnato un'epoca, soprattutto gli adolescenti di quell'epoca, e sicuramente Laguna Blu del 1980. Non riuscirai mai a fare una zattera abbastanza forte da portarti a San Forisco. Ne hai fatte 4 e le onde le hanno tutte mandate a pezzi. Sta zitta, non parlare! Ma perché non ti arrendi? Tu non lo sai neanche dove sta San Forisco. Sei proprio uno scemo, sai, Richard. Noi non ce ne andremo mai da quest'isola. È colpa tua. Ormai noi stiamo qui, è qui la nostra casa, è per sempre. No, io non ce la faccio più a vivere qui da solo con te. A metà 800, Emily e Richard, scampati a un terribile naufragio, si ritrovano su di un'isola tropicale e, dopo aver perduto l'unica figura adulta a cui appoggiarsi, sono costretti a sopravvivere e affrontare col tempo i cambiamenti del loro corpo e del loro rapporto, convinti che il luogo in cui si trovano sia l'unico che mai conosceranno in tutta la loro esistenza. Dallo stesso regista di Grease, una smirata avventura sentimentale molto di maniera, che però ebbe un incredibile successo commerciale nel 1980, la Sony Pictures Sound Entertainment, l'edizione Blu-ray, che al momento non è nemmeno disponibile negli Stati Uniti, con immagini in alta definizione, divisa sicuramente superiore al DVD, c'è un po' di grana, un po' di sfocature, è comunque interessante, traccia Dolby Digital monofonica in italiano originale dell'epoca e DTS multicanale ad alta risoluzione per l'inglese di discreta resa. Come extra segnalo un documentario di 9 minuti. E allora Laguna Blu per tornare giovani almeno per un paio d'ore. Invece un altro film di cui vogliamo chiacchierare, perché arriva in un video, è The Ghostmaker. Durante il saltuario lavoro di pulizia delle cantine, il giovane Kyle si ritrova con un'antica bara di cui non si sbarazza, come invece consigliato dall'anziana proprietaria, decidendo di sistemarla e poi rivenderla. Scoprirà che chiunque si sdraia al suo interno ha la possibilità di vivere per un lunghissimo periodo l'esperienza extrasensoriale di un fantasma grazie a un misterioso meccanismo riposto in prossimità della testa. convinto di poterci fare un ricco business, Kyle realizzerà troppo tardi di avere scatenato devastanti elementi soprannaturali. Discreto horror diretto da Mauro Borrelli, collaboratore designer per opere di registi come Francis Ford Coppola e Tim Burton, è stato scelto questo The Ghost Maker come primo DVD per la G-Movie, ovvero quella che speriamo sarà una lunga collana di opere disponibili gratuitamente in distribuzione sul territorio. È inedito in un video di buona qualità d'immagine con una traccia audio solo in inglese ma sottotitoli in italiano. Sono distribuite da alcune settimane circa 20.000 copie. 20.000 copie quindi in giro per l'Italia, nella grande distribuzione, nei grandi supermercati, a voi cercarli e approfittare di questa opportunità che è assolutamente nuova, cioè quella dei DVD omaggio, dei DVD gratuiti. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora siamo giunti in fondo alla nostra corsa, come sempre non ci resta che ringraziare Giorgio De Luca che ci ha assistito in redazione, Carmelo Lauricella qui in regia. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, cliccate mi piace sulla Rosa Purpurea Radio 24, unitevi al nostro gruppone per essere in contatto tutta la settimana con i vostri pareri sui film, con la puntata da scaricare in podcast, le notizie, le novità e anche la possibilità, come in questo caso, di sentire le interviste integrali che noi in trasmissione mandiamo ovviamente in versione magari un po' più ridotta, ma potete farvi tutto un ascolto privato, per esempio in questo caso con il cast di Mi Rifaccio Vivo. E allora appuntamento al prossimo weekend, grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.